La comunicazione alternativa è viva ed è in fermento. Questo è il dato di fatto che esce dalla prima giornata di lavori, che si è conclusa ieri, con un seminario tutto dedicato alla libertà di espressione e ai media alternativi e indipendenti. Questo primo seminario è stato partecipato non soltanto dal punto di vista di pubblico, ma anche con dei relatori molto preparati e soprattutto che hanno fornito un quadro abbastanza ampio di qual è la situazione dei media indipendenti in giro per il mondo, dal Kenya all'Ungheria fino alla questione italiana, passando chiaramente per la Turchia, che ben presto probabilmente entrerà nell'Unione Europea. Si è parlato di informazione, ma soprattutto di quali sono poi i risvolti concreti di una informazione, di un'altra informazione possibile sul piano contatto con la società civile e con il pubblico e soprattutto delle prospettive che questa comunicazione indipendente potrà avere. Come moderatore di questo primo seminario non ho nascosto un certo imbarazzo. Quando si parla di un'altra informazione possibile, la risposta è sì, un'altra informazione è possibile, ma bisogna farla. E questo lavoro non deve essere soltanto delegato ai media indipendenti, ma deve essere un lavoro fatto insieme agli ascoltatori e utenti, consumatori di informazione, che devono a questo punto avere un ruolo attivo. Chiediamo ascoltatori attivi, chiediamo consumatori attivi di informazione e comunicazione e chiediamo soprattutto che tutto il vasto mondo che viene abbracciato da queste tematiche si unisca in una sorta di grande unione che possa portare avanti queste istanze di comunicazione possibile e non legata alla commercializzazione dei fatti e soprattutto una vera informazione che ribalti quell'equazione secondo cui i media alternativi sono quelli che fanno informazione. Il discorso che poi è andato avanti anche sul caso Italia. Il caso Italia è un caso emblematico, non tanto per l'ingombrante presenza del Premier che nelle settimane raccoglie il controllo dei 6 principali canali italiani, ma anche per il fatto legato alla privatizzazione del servizio pubblico, una privatizzazione che sarebbe un caso unico in Europa e che chiaramente spaventa non tanto i media alternativi quanto proprio la società civile nel suo complesso, che comunque si ritrova di fronte a un dato di fatto, ovvero il servizio pubblico non è più come tale. Lavori sono proseguiti nella giornata di oggi, sabato, con un altro seminario, questa volta allargato ai media alternativi e indipendenti in senso più ampio, in senso più lato, per cui presenti in di media con i rappresentanti dai vari stati nazionali e soprattutto presenti i media attivisti che in un qualche modo riconoscono la necessità di creare una rete paneuropea che porti avanti alcune istanze non soltanto contenutistiche ma anche politiche nei confronti di Unione Europea e Consiglio d'Europa, che sono le due interfacce a livello continentale sulle quali bisogna fare questo tipo di lobby politica. I lavori continueranno nel pomeriggio con un occhio particolare alle pratiche, per cui alle strategie concrete da adottare per fare in modo che tutte queste belle parole diventino realtà. Da Londra è tutto, la linea allo studio.